I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il tema delle tasse delle multinazionali, o meglio delle tasse non pagate dalle multinazionali, è tornato ieri sotto i riflettori per gli sviluppi legati al caso Apple. Il caso era esploso a fine agosto, secondo la Commissione europea, grazie agli accordi fiscali siglati con l'Irlanda, la Apple aveva pagato tasse bassissime, solo lo 0,005% degli utili, con un risparmio di oltre 13 miliardi in un decennio. Bene, ieri la Commissione europea ha reso pubbliche le motivazioni sulla cui base ha chiesto all'Irlanda di recuperare da Apple le tasse non pagate. Inoltre, l'azienda di Cupertino ha annunciato ieri un ricorso contro le pretese della Commissione europea e sempre ieri il governo di Dublino a sua volta ha presentato appello alla Corte di Giustizia europea schierandosi con il colosso americano. Naturalmente è comprensibile che Apple abbia deciso di presentare ricorso. Quel che invece stupisce è il ricorso presentato dall'Irlanda, che non vuole recuperare le tasse non pagate da Apple perché, sostiene, la Commissione europea sarebbe andata oltre i suoi poteri interferendo con la sovranità nazionale in materia fiscale. Come si capisce, in gioco non ci sono solo 13 miliardi di euro, in gioco c'è la capacità dell'Europa di impedire che il fisco possa essere un'arma di concorrenza sleale tra i paesi. Un conto, infatti, è la scelta legittima di adottare aliquote fiscali molto basse, ma un altro conto è applicare regole fiscali di favore solo ad alcune società, come è accaduto nel caso di Apple. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Malgrado l'alta tensione sullo scenario europeo e internazionale, provocata ovviamente dagli attacchi terroristici a Berlino e in Turchia, i mercati finanziari continuano ad ignorare a pie pari qualunque tensione che non appartenga al QE o ai titoli di Stato. Una giornata positiva, nuovi record storici in Europa, positiva anche sui mercati finanziari americani e soprattutto una giornata dove non si è vista nessuna corsa ai rifugi sicuri, anzi è corsa a rischio, come dimostra il record segnato dagli indici stocks europei. Come giudicare dunque questo comportamento? Sicuramente siamo in un ambiente finanziario ormai totalmente condizionato dalla liquidità che viene dalle banche centrali e ormai quasi esclusivamente dalla BCE, un segnale positivo per il risparmio ma sicuramente preoccupante in vista della scadenza proprio di questo programma. Resta solo un anno a Draghi per stabilizzare il mercato finanziario europeo e soprattutto le banche. La domanda di tutti è che cosa succederà quando finirà il paracadute della liquidità e tutti torneranno con i piedi per terra, soprattutto le borse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.